La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Che cos'è l'Italia? Ce lo dice immediatamente l'articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica, ma c'è un'aggettivazione, fondata sul lavoro. Questo fondata sul lavoro cosa significa? Per capirlo bene dobbiamo andare alle radici storiche di questa scelta del Costituente, perché in Assemblea Costituente, sappiamo, c'erano tre grandi schieramenti. C'erano la parte liberale, ancora di derivazione statutaria, antica, poi c'erano tutte le forze comuniste e socialiste e c'era invece la parte cattolico-democristiana. Quando si trattò di scrivere l'articolo 1, il testo prevedeva inizialmente soltanto l'Italia una repubblica democratica. Poi a quel punto si aprirono proprio i due schieramenti. Da una parte lo schieramento cattolico, che era già vicino in quell'area di guerra fredda agli Stati Uniti d'America, pensava a qualcosa che si rifacesse alla pace, alla giustizia, alla collaborazione fra le nazioni, addirittura a un richiamo divino, il richiamo a Dio, che la Pira in Assemblea Costituente presentò come possibile emendamento. Dall'altra parte, invece, gli schieramenti di sinistra volevano un richiamo più chiaro a quello che poteva essere la partecipazione alla sovietica e quindi l'Italia è una repubblica di lavoratori. Questa repubblica di lavoratori che echeggiava la Costituzione russa, che addirittura ci dice la Russia è una repubblica di lavoratori delle braccia e della mente. Ovviamente andava cercato un compromesso e il compromesso pare lo trovò Fanfani, che era uno di questi grandi mediatori, grandi cucitori dell'Assemblea Costituente, propose questa formula che all'evidenza potrebbe non significare nulla e invece significa tutto. Perché? Perché la Repubblica è di cittadini e non di lavoratori, ma ciascuno col proprio contributo, ciascuno con la propria partecipazione fonda la Repubblica e quindi è il contributo di tutti che fa la Repubblica. E poi c'è il secondo comma. Ma che cosa c'è dentro la sovranità? La sovranità chiaramente è del popolo, perché siamo una repubblica democratica, ma ovviamente non può essere il popolo ad esercitarla direttamente. Ecco allora la duplicità. La sovranità viene esercitata in genere mediante la forma rappresentativa. Si eleggono le camere nominano il governo, si elegge il Presidente della Repubblica, tutti organi che rappresentano la sovranità popolare in quanto discendono dal popolo. E poi ci sono le occasioni in cui invece il popolo viene chiamato direttamente, non solo a votare, ma anche nel referendum, nell'iniziativa legislativa popolare, nella petizione, nella riforma costituzionale, e quindi sono i casi in cui la democrazia diretta bilancia quella rappresentativa. Ma comunque, alla base, la sovranità è sempre del popolo.